We'll continue now with the words and phrases you'll need for the next dialogue. And as usual... Ascolti e ripeta. Senti. Listen. Senti. Cerchiamo... We're looking for... Cerchiamo... Di marca. Of a good brand. Di marca. I più moderni. The most modern. I più moderni. Uno specchio. A mirror. Uno specchio. Grandi. Big. Grandi. Più piccoli. Smaller. Più piccoli. As before, review that new language and when you're confident with it, continue with this next dialogue.